versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, Oscar Giannino vi saluta, qui in diretta da Radio 24, studio di Milano, 16:36, 10 secondi. Che fatica, vi devo dire, la fatica che faccio in questi ultimi giorni di campagna elettorale è una fatica improba, perché verrebbe, per così dire, facilmente alla bocca fare delle trasmissioni in cui chiedervi, per esempio, cosa a diavolo pensate dell'ennesima presa in giro della Tasi, eh? E del caos tra governo e comuni, che ovviamente non vi dà alcuna certezza su quando pagare, oltre che una certezza residua su quanto, visto che molti comuni i più non hanno deciso le aliquote. Oppure, se chiedervi cosa pensate, a prescindere, perché di questo ce ne occuperemo dopo il voto europeo, di come la pensiate su taxi e Uber, ce ne siamo già occupati più volte, ma cosa pensate del fatto che a Milano 4 giorni di blocco del servizio delle auto pubbliche, lo dico con rispetto per tassisti, per tutto, e il comune però e il prefetto che fanno finta di non esserci da questo punto di vista. Oppure, che ne so, cosa pensate dal fatto che ci sono in arrivo queste nomine al CSM e potete leggere oggi sul Corriere della Sera un articolo di un intero colonnone in cui vi spiega come vengano fatte, cioè con degli orrendi accordi correntizi, esattamente come i vecchi partiti della Prima Repubblica, o peggio, però naturalmente bisogna dire che i magistrati sono diversi. Ecco, faccio molta fatica, perché siccome siamo sotto voto, voglio evitare che qualcuno dica, naturalmente, che poi lo faccio per portare gli ascoltatori di qua o di là, come se ciascuno di voi non avesse le proprie opinioni e le proprie scelte o le proprie non scelte. C'è anche la scelta di astenersi. Io non penso, come capo dello Stato, che si debba andare a votare per forza, perché io penso che anche chi si astiene esprime un giudizio, a prescindere che c'è anche chi può farlo perché non è interessato, e non per questo io lo condanno. No, oggi facciamo una puntata su un segmento dell'economia italiana. Inciso, avete visto quando vi dicevo che gli spread ripartivano perché è una condizione oggettiva internazionale? Guardate, chi vi dice che adesso ripartono per paura di Grillo sbaglia, perché noi abbiamo l'obbligo come giornalisti economici di dire che, da quello che abbiamo capito degli spread, se si erano abbassati non era per le riforme italiane ma era per il contesto internazionale. Adesso il contesto internazionale, con vicende come l'Ucraina, l'accordo tra Cina e Russia, stamattina trentennale sul gas e così via, di far riaprire gli spread di quei paesi come no, il nostro, che sono piantati a terra con il PIL, purtroppo, dati del PIL italiano e comparato europeo del primo trimestre, e di fronte a questo gli spread ripartono. Ecco, attenti a chi vi dice che c'è dietro chissà quale lettura. Però uno dei segmenti su cui l'Italia dovrebbe scommettere più, e non lo fa purtroppo per una serie di ragioni, è il turismo. E allora oggi partiamo da una notizia che in questi giorni avete letto sui giornali, quindi vi chiedo di dirci come la pensate, perché sono iniziate indagini antitrust su alcune delle più grandi piattaforme su internet attraverso le quali si fanno le scelte per dove andare, per quanti giorni, in che albergo, cosa visitare, eccetera eccetera. E l'antitrust ha aperto una serie di indagini su Expedia, su Booking.com. Ieri si è aggiunto un altro gigante del web per l'offerta integrata del turismo, cioè TripAdvisor. Le ipotesi sono diverse, quelle su cui sta indagando l'antitrust. C'è un'ipotesi di cartello, c'è un'ipotesi di recensioni truccate e quindi di distorsione della concorrenza, c'è un'ipotesi di profilatura dei clienti da cedere poi ad altri grandi colossi internazionali. Il fatto però è che nessuna di queste grandi piattaforme, di questi grandi integratori online dell'offerta turistica, nessuno di questi è italiano. E la singolarità è che poi l'Italia sia pur scesa al quinto posto delle preferenze del turismo internazionale rispetto ad altri paesi che hanno saputo fare meglio, anche europei, di noi in questi anni, non abbia in questi anni capito che invece, per incrociare la grandissima domanda internazionale, che resta molto viva e resta uno dei più grandi nostri patrimoni di turisti che vogliono venire in Italia, girare in Italia e capire che cosa possono fare nei loro giorni e per la loro quantità di spesa disponibile, e tutto questo però non ha mai prodotto la nascita di un integratore che abbia la forza, per quantità di dati integrati di tutte le regioni italiane, di saper proprio interfacciare questa persistente, grazie al cielo, domanda internazionale di turismo nei nostri paesi, nel nostro paese. Allora, oggi ci occupiamo di capire che chance ha, da dove nasce l'idea, perché forse, speriamo, lo sta nascendo esattamente quello che manca rispetto a giganti come TripAdvisor. Inciso, vi dico anche che da una parte la politica si riempie la bocca del web, dell'economia digitale, dell'agenda digitale che stiamo aspettando, dall'altra, se andate a curiosare nella bozza di decreto che gira quello esattamente su cultura e turismo, su cui sta lavorando il ministro Franceschini, che dovrebbe andare presto al Consiglio dei Ministri, troverete esattamente sul punto che riguarda gli integratori online per incrociare offerta e domanda di turismo, una cosa che a me ha fatto fare un balzo sulla sedia, perché trovate una norma con la quale il governo si propone di proibire agli integratori online di offerta turistica di poter praticare tariffe diverse da quelle che direttamente praticano gli albergatori, le imprese ricettive, eccetera, eccetera. Probabilmente l'idea nasce dalla supposizione di tenersi buoni gli imprenditori turistici. Dall'altra parte rivela però questa specie di web tax pubblica sul turismo una totale incomprensione di a che cosa serve l'intermediazione della rete. Serve esattamente a ottimizzare non solo la risposta al turista che vuole decidere dove è meglio andare per le sue tasche, ma anche la copertura delle camere, per esempio, rendendo più flessibile il prezzo rispetto a quello ufficialmente praticato esattamente per gli alberghi. Piccolo esempio per capire come la politica si riempie la bocca di futuro, ma secondo me continua spesso ad avere la testa orientata al passato. Però facciamo parlare di queste cose chi ci sta lavorando concretamente, molto più autorevolmente di me. E quindi con noi per parlarne esattamente il presidente di Digital Magics, e ci spiegherà che cos'è questa impresa, che ieri in un convegno a Roma ha presentato esattamente questa idea di maxi integratore online dell'offerta turistica italiana, che si dovrebbe chiamare TripItaly, quindi segue un po' la cosa di TripAdvisor, però TripItaly, e il presidente di Digital Magic si chiama Enrico Gasperini, grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a voi, buongiorno. Ed è con noi anche, per così dire, colui grazie al quale questa idea nasce e potrà probabilmente andare avanti, è il presidente di Confturismo, che è la filiera del commercio di Confcommercio, ma è soprattutto l'amministratore delegato di UVET. UVET è il più grande intermediario dell'Italia nei confronti della domanda di turismo verso l'Italia, che viene dal resto del mondo, in tutti i settori, tanto per i viaggi, business, squadre con le retail, ed è Luca Patanè, il presidente di UVET. Buon pomeriggio Luca Patanè, grazie. Buongiorno a te Oscar. Allora Gasperini, questo TripItaly, che cos'è, ma innanzitutto che cosa fa lei, che cos'è Digital Magics? Digital Magics è un incubatore di aziende, uno dei più grandi che ci sono nel nostro paese. Un incubatore è un acceleratore, un'azienda che si pone al fianco delle start-up, le fa crescere, le supporta sia dal punto di vista finanziario sia in termini di servizi per farle nascere, farle sviluppare sul nostro mercato. Ogni anno investiamo su una ventina di imprese, ne abbiamo fatte oltre 40 fino ad oggi e la società è quotata in borsa a Milano. Ma in che cosa consisterebbe la differenza rispetto alle tante pur apprezzabili iniziative che sono nate anch'esse da start-up nel settore del turismo per tentare l'integrazione dell'offerta di questo o quel segmento, dagli stabilimenti balneari agli alberghi eccetera eccetera? Che cos'è che manca loro fino a questo momento per potersi candidare a intermediare davvero una gran parte, una parte consistente almeno di quello che dall'estero chiedono verso l'Italia? In Italia c'è un problema generale che riguarda un po' tutta l'innovazione in settore tecnologici e relativo sviluppo. Abbiamo investito molto poco in questo settore, abbiamo investito poco nel venture capital, poco nella crescita tecnologica del paese. Il risultato di questi non investimenti o pochi investimenti sono che siamo in ritardo su una serie di settori. In particolare è evidente a tutti gli utenti, anche italiani, che i grandi intermediari, le agenzie online e in generale gli ottimizzatori nel mondo del turismo sono tutti attori internazionali, quasi sempre americani o perlomeno europei, quindi chi ci sta gestendo il paese sono dei grossi operatori internazionali, chiaramente lontani dagli interessi dei nostri operatori e molto spesso proprio per questo motivo dotati di un potere negoziale crescente e sempre maggiore. Questa mancanza di investimenti ha determinato il fatto che pochissimi operatori italiani sono riusciti ad avere le risorse finanziarie necessarie per poter creare portali o piattaforme di intermediazione che siano visibili sul mercato consumer, quindi che siano utilizzate da un numero di utenti e di viaggiatori adeguato, soprattutto nell'incoming, nella parte internazionale. Questa diciamo, evidenza che c'è sull'intero mercato, insieme invece all'opportunità che vede in questi ultimi mesi, questi ultimi anni, un fiorire, un nascere di tantissimi team italiani, tantissime start-up tecnologiche che con molta originalità ed energia stanno provando a cimentarsi in questo settore, organizzando una parte dell'offerta, ci ha fatto arrivare a questa proposta che stiamo portando avanti, di questa piattaforma che sia in grado di integrare il lavoro di questi nuovi start-up, di queste nuove imprese italiane, metterle insieme, metterle a sistema, unirle fra di loro e in funzione di questa capacità di copertura del mercato che nasce appunto dal fare sistema, costruire delle alternative per il mercato dell'incoming agli operatori internazionali. Si tratta solo di integrare quel che già c'è, oppure io sono un po' critico nei confronti per esempio delle piattaforme messe in piedi dalle diverse regioni, Veneto Turismo, Puglia Turismo secondo me funziona già meglio, Sardegna Turismo secondo me è molto carente e così via, e con le diverse iniziative pubbliche regionali, si tratta solo di integrarle o di cambiarne un pochino anche proprio l'impianto? Questa è la domanda, ma adesso abbiamo i 60 secondi di informazioni sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati a parlare di questa idea, cioè di tentare un portale capace per i suoi numeri e quindi per poter mettere insieme il più o moltissimo di quello che c'è già online nell'offerta turistica italiana per poter tentare di intercettare i grandi flussi internazionali. Tripitali potrebbe essere questo il suo nome. Ne stavamo parlando con Enrico Gasperini, che di professione, avete visto, fa lo sviluppatore, l'integratore di startup, presidente di Digital Magics, e la domanda è: quello che è stato messo in piedi dal pubblico, il suo giudizio qual è? Sono state fatte molte iniziative, molto spesso frammentate, eccessivamente frammentate, quindi con diciamo la consueta incapacità del nostro sistema di organizzarci e al contempo finanziate soltanto per un periodo della propria vita e spesso dal pubblico. In realtà questo è un business, un grande business, perché comunque la fetta degli intermediari elettronici è importante anche dal punto di vista economico, quindi noi riteniamo che integrando quello che stanno facendo nel piccolo dei magnifici piccoli imprenditori italiani piuttosto che il pubblico possa creare un sistema sufficiente ad attirare anche investimenti che possono dalla parte privata e mettendo a frutto queste due risorse si possa competere perlomeno in certi segmenti con i grandi potentati internazionali. Allora, intanto un ascoltatore che dice no, è un errore non parlare di Uber Taxi se non dopo il voto. Mi è stato fatto osservare che invece c'è una forte, per così dire, caratura politica. Ci sono dei politici che sono andati ad arringare i tassisti, ce ne sono altri che danno ragione e dicono di aver dato ragione. Io voglio evitare che una questione che riguarda la regolamentazione dell'evoluzione di un segmento dell'offerta del trasporto privato e pubblico possa essere interpretato, caro ascoltatore, come fantasie di simpatie per gli uni o per gli altri. Qui è un grande problema di interpretazione di come i device tecnologici possano migliorare la vita di tutti. Naturalmente il regolatore deve avere un certo coraggio. Il regolatore è sparito in questi giorni a Milano, questo è il mio giudizio. So che oggi il ministro Lupi si incontra i tassisti, il ministro, perché il sindaco e il prefetto sono spariti. Detto tutto questo, non è neanche un mistero che il ministro si vuole candidare sindaco a Milano, quindi per questo ho deciso di aspettare ancora qualche giorno e lo faremo con equilibrio, perché ricordate che io qui ho chiamato i sindacalisti dei tassisti e abbiamo parlato di Uber con Uber. Qui si tratta di spiegare meglio e consentire a ciascuno di voi di farvi le proprie opinioni, non di imporre il mio presunto punto di vista. Patanè, spesso si dice però che in Italia, visti i dati comparati, la qualità dell'offerta di a vasti segmenti delle imprese del settore turistico, da quella alberghiera e così via, è una qualità bassa perché c'è troppo frazionamento delle imprese, perché le unità di capitale da investire sono troppo basse, e che questo è un aspetto forse fondamentale poi del fatto che siamo arretrati rispetto ad altri paesi che magari anche nella crisi ma hanno saputo offrire qualità migliore per prezzi che convincono di più poi i turisti che del resto d'Europa e del resto del mondo giustamente si fanno i conti in tasca. In questo lei come UVET, come Confturismo eccetera, che dice? C'è una responsabilità anche delle imprese o no? Beh, sicuramente c'è sempre una responsabilità delle imprese, perché non è sempre il caso che piove sopra di noi e siamo sfortunati. Questo Non esiste nel nostro mondo la sfortuna o le occasioni non prese. È un momento in cui bisogna rimodernare la nostra offerta, quindi è un momento di crescere anche per questo, per cercare di liberare nuove risorse e per lanciare. Allora, da un punto di vista, noi abbiamo sempre avuto struttura dell'economia italiana, non solo nel turismo, un po' l'atomizzazione delle nostre imprese, tante imprese magari anche abbastanza piccole, ma molto piccole, e quindi certo. Diciamo con una difficoltà anche di successione, quindi di essere presenti sui mercati internazionali. I classici problemi delle microimprese italiane. E quindi anche il turismo è la stessa cosa. Certo. Non è che il turismo è diverso, gli alberghi sono atomizzati, le agenzie, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, ovviamente, i grandi integratori internazionali, le grandi aziende internazionali, i grandi portali, ovviamente hanno avuto gioco facile quando c'è un'atomizzazione degli alberghi e degli operatori. È più facile, ovviamente, imporsi. Da questo punto di vista, secondo me, è il momento adesso, ad esempio attraverso queste opportunità di Tripitali, è il momento adesso di iniziare a studiare delle soluzioni che forse un giorno possono competere in parte con questi con queste grandi aziende internazionali, che però sono sostenute da capitali immensi. Esatto. E quindi non è che possiamo dire che noi possiamo essere un'alternativa, però col tempo, se mai si parte, non ci sarà mai un'alternativa. Sentiamo, certo. Abbiamo degli ascoltatori esattamente sul tema, diciamo, su cui sono aperte le indagini dell'antitrust, cioè se esiste un problema, per così dire, di cartello sui dati raccolti, offerti, sulla loro profilatura. Sentiamo Filippo che ci chiama da Luca. Prego, Filippo. Buonasera a tutti i suoi ospiti. Sì, io sono un operatore del settore, un albergo a Lucca, sono 30 camere, però come tutti siamo costretti ad aderire a queste grandi portali, Expedia.com e Booking.com. Fatto sta che chiaramente non lo fanno gratuitamente, perché noi si paga il 22% per Expedia e il 18% per Booking.com sulle prenotazioni che vengono incanalate da questi portali. Ma non è questo il problema, cioè è un problema, perché ovviamente già dalle tariffe che siamo costretti a ribassare in continuo, più ci mettiamo l'IVA che il cliente paga nel prezzo già comprensivo della camera, certo. Ci troviamo un altro 20% da dare a questi portali, il margine scende, ovvio. Si assottiglia moltissimo, ma il problema è che qualora noi ci azzardassimo ad abbassare sul nostro, perché ormai tutti gli alberghi hanno un sito proprio, fare un'offerta di last minute, perché magari... Sì, il punto toccato dal decreto che è in ipotesi del governo, se lo faceste? 5 minuti dopo mi arriva un'email da parte del portale dove mi intima ad abbassare i prezzi anche loro, altrimenti l'adeguano direttamente al prezzo più basso che ho fatto io. E questo lo capisco, però credo che la norma a cui pensa il governo sia sbagliata rispetto all'idea di una buona cooperazione tra l'impresa e l'integratore intermediario online. Sentiamo Massimiliano da Milano, breve, come la pensa? Ma allora, noi abbiamo una tecnologia invece di comparazione, sì. Che diciamo, quindi, per dare un'idea, tipo Skyscanner, tipo Kayak e via dicendo. E dalla quale? Diciamo per cui andiamo poi noi stessi a comparare i prezzi che vengono dalle diverse piattaforme, quindi noi compariamo Expedia con Booking. E che impressione avete? Altri. Ma l'impressione è che, diciamo, ci sono due problemi. Uno, il problema sta negli albergatori, perché quindi, alla fine si parla, per esempio l'ascoltatore di prima. E il secondo? Il problema sta nelle grandi aziende. Ok, io purtroppo ci sarebbe molto da dire, dovremmo ritornarci sopra. Continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.